Le sette canzoni per Languana. Eteree muse. Eteree muse mi ruotano attorno, e forse è notte, e forse è giorno. Le ore che scorron non sto a contare, e gli anni che passan li lascio andare. Non ho desideri, né grandi pretese, mi innamoro solo una volta al mese. È quando la luna si mostra intera, che lusso, che charme per tutta la sera. È come sorgesse soltanto per me, Madonna di luna, che è una ed è tre. Eteree muse mi ruotano attorno, e forse è notte, e forse è giorno, e forse è notte, e forse è giorno. Anguana, la signora degli animali. Anguana mi chiama chi mi riconosce, ho piedi di capra, di pelo le cosce. Ho rossi i capelli, lo sguardo felino, di lupa la bocca, di cerva il cammino. Col solo sguardo ti posso bruciare, se tu mi molesti avrai ore amare. Ascolta del fuoco la voce profonda, io sono nella fiamma e sono nell'onda. Mentre vai tranquillo lungo la strada, spalanco una fossa con tocco di maga. Ho coda di pesce come una sirena, ho coda di serpe sui monti o in barena. Ho ali di uccello, di aquila il cuore, io accompagno chi vive e chi muore. Ascolta del fuoco la voce profonda, io sono nella fiamma e sono nell'onda. Se umili la gente, credendoti forte, dell'uscio di casa trapasso le porte, mi faccio piccina e dalla serratura io passo veloce per la tua paura. Nel fuoco e nell'onda mi potrai vedere, ma se tu mi ascolti, non hai da temere. Ascolta del fuoco la voce profonda, io sono nella fiamma e sono nell'onda, io sono nella fiamma e sono nell'onda. Si oscura il monte. Si oscura il monte e tutto tace in alto che vola un solo rapace. Raccogli le forze, il vento furioso, un istante di tregua, poi soffia a ritroso. Il corvo annuncia, attente creature, tra poco è tempesta, nel nido, sicure. Dovete restare, finché non s'acquieta, l'amara del monte s'avvicina inquieta. Su tutto discende la notte improvvisa, ne vedo il volto, il buio mi avvisa. Si apron dall'alto le gran cataratte, e tutti a dire, le anguane son matte. Vi faccio paura, perché so del tempo, tutto indovino di voi anzitempo, tutto indovino di voi, anzitempo. Non uso la sfera, né altri strumenti. Sto attenta ai segni che sono evidenti. Si oscura il monte e tutto tace in alto che vola un solo rapace. In alto che vola un solo rapace. In alto che vola un solo rapace. La serpe. La serpe mi avverte del rischio vicino. Io sono lo spirito dell'arco alpino. Io sono lo spirito dell'arco alpino. Piantate le croci sulle mie vette, perché temete le mie saette, perché temete le mie saette. Al Cristo che muore io porto da bere. Non ho mai lasciato creature appassire. Al Cristo che muore io porto da bere. Impara, pianura, la legge dei monti. Il cibo è poco, ma serve per molti. Il cibo è poco, ma serve per molti. Ciascuna di noi. Ciascuna di noi fu perseguitata. In alto, sui monti, si è rifugiata. Non c'è più burrone o forra assassina che non abbia da allora un'anguana vicina, attento a ogni passo che fa in montagna. L'anguana t'agguanta di Francia o di Spagna. Di Alpi e di Colli noi siamo le custodi. Deciditi dunque se ci ami o ci odi. Ma in giro c'è gente che ammazza le donne, si muove feroce nella notte insonne. Non credere a chi ci dice cattive. Siamo come le fonti, siamo belle e siamo vive. Attento a ogni passo che fai in montagna. L'anguana t'agguanta, di Francia o di Spagna? Di Alpi e di Colli noi siamo le custodi. Deciditi dunque se ci ami o ci odi. Ma in giro c'è gente che ammazza le donne. Si muove feroce nella notte insonne. Non credere a chi ci dice cattive. Siamo come le fonti. Siamo belle e siamo vive. Attento a ogni passo che fai in montagna. L'anguana t'agguanta, di Francia o di Spagna. Di Alpi e di Colli noi siamo le custodi. Deciditi dunque se ci ami o se muori. L'arcobaleno. Mi piace il viola, mi piace il giallo, a letto vado al canto del gallo. La primula spande il proprio profumo, non deve chiedere permesso a nessuno. Il rosso è vita, di mese in mese nessun sacrificio, l'amore è cortese. Il bianco di neve, il bianco dell'ossa, non è con il nero da scendere in fossa. La primula spande il proprio profumo e non deve chiedere permesso a nessuno. L'azzurro ed il blu indossali sempre. Il rosa è dolce, il verde distende. Ma dell'arancio io voglio cantare la forza allegra per ricominciare. La primula spande il proprio profumo e non deve chiedere permesso a nessuno. Ho ritrovato il mio senso pieno, ho tutti i colori dell'arcobaleno. La primula spande il proprio profumo e non deve chiedere permesso a nessuno. Non deve chiedere permesso a nessuno. Sono una dea. Anguana, mi dicon, ma sono una dea del monte. Io sono matrice ed idea. Sono acqua che canta, sono acqua che scorre. Io vivo libera, nulla mi occorre. Di latte inondo le vette dei monti, io sono la regina di fiabe e racconti. I figli miei, cari, io curo nascosta perché di voi nessuno mi riconosca. Le bianche lenzuola io stendo di notte, da un monte all'altro, vicino alle grotte. Sono la serpe, sono la rana, non disturbarmi nella mia tana. Io tutto vedo dal mio dirupo, colomba e aquila, mi muto in lupo. Anguana, mi dicon, ma sono una dea. Del monte io sono matrice ed idea. Del monte io sono matrice ed idea. Da ballate di terra e di cielo, il respiro della terra. Il respiro della terra, lo stormire delle fronde. Son sussurri tra le foglie, il danzar di spighe bionde, il respiro della terra è il volo di un uccello, è la pioggia sulle palme, il vocio del pipistrello, il respiro della terra è lo sguardo delle stelle, son scie di mille mondi, son pleiadi sorelle, il respiro della terra è il mare che si ingrossa, le correnti più profonde che spariscono nella fossa. Il respiro della terra è un'isola che nasce, che ritorna nel profondo ed un giorno poi rinasce. Il respiro della terra, la montagna che si incrina, la pianura che si infossa nella gola di dolina. Il respiro della terra è il soffio del vulcano, sono onde che si innalzano fin quasi al terzo piano. Il respiro della terra son maree sconvolgenti, son le acque vomitate fuor dal letto dei torrenti. Il respiro della terra è il rotar dell'uragano. E la danza delle nubi sulla testa dell'umano, il respiro della terra, sono oceani lunari, sono echi della luce, sono palpiti astrali, il respiro della terra, un cantare di civetta, mentre l'aquila là in alto ci osserva dalla vetta. Giro, giro, giro tondo. Dai che casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra, terra, terra, Tutti su per terra, tutti su per terra, terra, terra, terra, terra, terra, terra, terra. Da Landai di forza, resistenza e gioia. I miei sogni. Qualunque cosa mi facciate, i miei sogni continuano a vivere in me. La forza. Ero una palma. Un tempo ero una palma. Non c'è più il deserto, ma un immenso palmeto. Siamo le foglie. Ci avete tolto l'aria. Ma noi siamo le foglie che respirano. Senti, mi hai afferrato per la gola. Senti come urlano le mie sorelle. Una nuova aurora. Crollano le vostre certezze. Intravedo una nuova aurora al mondo. Voglio vivere. Finora mi sono nascosta. Ora voglio vivere alla luce del sole. Sono una creatura. Non voglio mai più delegare. Io sono una creatura di questa terra. Nuova linfa. La poesia non cambia nulla. Senti la nuova linfa dentro le tue vene. La resistenza. Non avete potere. Un'altra si suiciderebbe, ma su di me non avete potere. Mi sono rialzata. Tante volte finita a terra, quante quelle che mi sono rialzata. Ora di finirla. Credo sia ora di finirla. I fiori della casa con te appassiscono. Ogni orma. Scivolerò via come spettro. Cancellerò ogni orma nell'andarmene. Di latte e miele. Solo il fatto di essere lontana rende di latte e miele il mio letto. Danno collaterale. La famiglia mi uccide, per voi è solo un danno collaterale. Sono riuscita. Mi avete dimenticata, dunque sono riuscita nel mio intento. La gioia. Oggi il sole. Oggi il sole è tornato. Figli miei, vorrei parlarvi della gioia. Nel mio cuore. Non credetemi mai sola. Ora e sempre vi porto nel mio cuore. Davanti a nulla. Non occorre che mi difendiate. Vostra madre non si piega davanti a nulla. Non importa. Non importa se amerò ancora, l'amore arriva solo se non l'aspetti. Sono innamorata. Figli, sono innamorata, che il peso di me lasci il vostro cuore. Luce è l'essenza. Luce è l'essenza dell'amore che traspare da ogni poro della mia pelle. Spirale. Come la muta del serpente, io ora mi apro a nuove stagioni.